Olimpia, miti e verità dello sport di Dario Ricci. Non solo gli uomini, quando entrano nelle grazie degli dei di Olimpia, riescono a compiere straordinarie imprese sportive. Oggi voglio infatti raccontarvi le storie di due campioni davvero particolari, che in epoche diverse hanno infiammato l'Italia ed esaltato migliaia di tifosi, come se fossero degli umani. Sì, perché Varenne e Vandalo uomini non sono, ma cavalli, invincibili trottatori che hanno acceso la passione ben oltre gli angusti limiti di un ippodromo. E allora partiamo dal campione a noi più vicino, quel Varenne che per i suoi sostenitori divenne ben presto il capitano. Qui revient à l'extérieur. Varenne attaqué par Général Dupont. Varenne, Général Dupont. L'Italie contre la France. Gian Palo, Minucci, Varenne, Jules Le Pelletier, Général Dupont, Richard, William de Descher, Fanidol. Varenne l'emporte. Fanidol prend la deuxième place. Général Dupont est troisième. Il semble normal. Et quatrième. À distance, nous retrouvons une multitude de concurrents pour la quatrième, la cinquième, la sixième et la septième place. Victoire. Del Capitano. Grand Prix d'Amérique 2001, Varenne, condotto da Giampaolo Minucci, trionfa all'ippodromo di Vincennes, mettendo a segno una delle sue vittorie più esaltanti. Il primo successo internazionale appena due anni prima nel Gran Premio delle Nazioni a San Siro, a Milano. Varenne che prova a sparare la bordata quando siamo a 600 metri dalla conclusione, 30 secco dal palo sino a metà retta opposta, e Varenne che insiste su Moneymaker, la sopravanza, i due seguiti da New Kid Lindsay, poi Umbro di Grana. Varenne che ha sopravanzato Moneymaker quando si va al miglio, passato in 1:58.8. Varenne che si porta presso New Kid Lindsay, la quale cerca di uscire dalla scia, e in calo Moneymaker, poi Umbro di Grana, 250 al palo. Varenne in vantaggio con due di margine nei confronti di New Kid Lindsay. Varenne scatena l'urlo della folla di San Siro. Varenne che se n'è andato da New Kid Lindsay, Moneymaker che prova a riproporsi di dentro, in vantaggio Varenne, di dentro Moneymaker, Varenne, Paolo Minucci, El Nazioni 99, la gente in pista, San Siro che salta, le braccia al cielo, è tutto a Milano che esplode. Pagine leggendarie del mito di Varenne, che ripercorriamo oggi con un vero esperto di ippica, Ettore Barbetta, amico, collega e figlio del grande driver Mario Barbetta, oltre che giornalista della rivista Trotto & Turf. Benvenuto Ettore a Olimpia, la città dello sport. Buongiorno Dario, a te e a tutti gli ascoltatori. Allora Ettore, spiegaci un po' come nasce il mito di Varenne. Nasce a suon di vittorie, come poi nascono tutti i miti dei grandi sportivi, di un cavallo che ha avuto un inizio difficile, perché quando era puledro ha avuto una frattura che lo ha costretto a restare in box per lungo tempo. Forse questo gli ha forgiato il suo eccezionale carattere agonistico. Poi ha trovato prima sulla sua strada un altro cavallo famoso e mediatico come Viking Kronos, allenato italiano ma allenato in Svezia, che è stato il cavallo che dopo molti anni ha riportato le corse sulle prime pagine dei grandi quotidiani. E quando Varenne, diciamo, l'ha sorpassato e battuto, è stata una sua prima consacrazione. Poi ha battuto un'altra grande campionessa, l'americana Moneymaker, forse sicuramente una delle più forti femmine di tutti i tempi. Lui ha soli 4 anni, ha vinto il Gran Premio delle Nazioni a Milano davanti a un pubblico in delirio, battendo questa grande campionessa americana, e poi sono cominciate le sue grandi sfide internazionali. Per questo un po' è stato per Varenne, che ha vinto in tutto il mondo, ha vinto in Francia, ha vinto negli Stati Uniti, ha vinto nel Nord Europa, per cui diciamo ha portato il nome dell'Italia a essere vincente su tutti i campi, su tutti gli ippodromi. Un grande cavallo che magari però non sarebbe stato campione senza grandi uomini attorno, giusto Ettore? C'è stato un grande lavoro di team che ha messo insieme personaggi provenienti da realtà diverse, perché abbiamo avuto un allenatore finlandese, Jori Turja, che ha insomma saputo mettere a punto al meglio questa macchina da guerra. Finlandese nella parte principale della carriera è stata anche la sua LED, cioè la ragazza che lo accudiva quotidianamente, forse quella che sapeva comprenderne meglio l'umore, le necessità e magari i momenti storti. Si chiama Ina Rastas, un guidatore romano che più romano non si può, Gianpaolo Minucci, che lo ha saputo interpretare al meglio in corsa, anche se poi lui ha sempre ammesso che con Varenne era più facile perché ti dava almeno una possibilità di sbagliare in corsa. Pensiamo al maniscalco, cioè colui che cura la ferratura, ha avuto un chiropratico che lo curava periodicamente per sciogliere i muscoli, per favorire il suo benessere e tanti altri. Ovviamente il suo appassionato proprietario Enzo Giordano pensa che lui non ama volare per cui si è sobbarcato delle massacranti trasferte in giro per l'Europa per seguirlo nelle sue tante vittorie. Quali le sue più grandi vittorie? Ce ne sono tre particolarmente significative, due in Svezia e una in Italia, ma soprattutto perché per come sono venute e per gli avversari che ha battuto. La prima è l'Olympia Travet che si corre a Göteborg in Svezia e lui nel 2000, dopo aver perso in maniera controversa il suo primo Prix d'Amérique, ha ritrovato General Dupont-Mot che lo aveva battuto e l'ha demolito, l'ha steso col pugno del KO girando costantemente di fuori e battendolo di forza. Poi ci sono state le due vittorie nel Gran Premio della Lotteria e nell'Elite Lop ai danni di Victor Itilli, che era un altro dei cavalli più forti in Europa, un cavallo svedese, e in entrambe le occasioni l'ha battuto sempre di forza, quindi girando di fuori e in testa a testa, piegandolo di forza. In particolare quella nell'Elite Lop 2001 ha suscitato l'entusiasmo anche degli svedesi, che pure hanno visto battuto il loro campione. Allora, riviviamola insieme un'altra grande vittoria di Varenne. Siamo a Napoli, Gran Premio Lotteria Nazionale il 5 maggio del 2002. Sta passando Varenne, passa! Varenne in vantaggio, allargo Legendary Love Cup, Varenne in vantaggio, allunga Varenne, Varenne se ne va! Se ne va! Standing ovation! Standing ovation! Vamos, vamos! Varenne polverizza tutti i record! 1.53.3! 1.10.8! Standing ovation! Standing ovation! Per Varenne! Signori, standing ovation! Standing ovation! Per il più gran cavallo al mondo! Non so se nella mia vita e se nemmeno quelle dei miei figli, dei miei nipoti, vedranno un altro campione come questo. Varenne, di tutto, di più. Oggi Varenne ha ormai lasciato le piste e si dedica con successo, direi, alla nuova carriera di stallone. Ma ti chiedo, Ettore, cosa ha rappresentato questo campionissimo per l'ippica e lo sport italiano? Sicuramente per l'ippica ha rappresentato la massima espressione dell'allevamento italiano, ma per tutto lo sport, come tutti i grandi campioni che vincono quasi sempre, un momento di esaltazione per gli appassionati di corse, ma non solo, per tutti gli italiani che hanno riconosciuto in Varenne un campione del calibro. Ecco, io mi permetterei degli accostamenti. Si è trattato di un cavallo che ha spostato in avanti i limiti del suo sport, quindi non so, lo associerei ad altri campioni magari che iniziano pure con la lettera V, come Valentina Vezzali o Valentino Rossi. Ecco, questo, siamo nell'ordine di questo genere di livello assoluto nel proprio sport. E di un altro fenomenale quadrupede col nome che inizia sempre per V parleremo fra pochissimo. Ettore Barbetta, intanto grazie per essere stato oggi ospite di Olimpia, la città dello sport. Grazie a voi. Qualche istante di pausa e poi ancora insieme qui a Olimpia. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta... Olimpia, miti e verità dello sport. Fossero bastati gli inni a fare l'Italia unita? No, bisogna riconoscerlo, più di fanfare e orchestre. Qui in sottofondo stiamo appunto sentendo l'inno del Regno d'Italia, in vigore dal 1861 al 1946, riuscì a fare addirittura un cavallo. Sì, avete capito bene, proprio un cavallo. Del resto, quella di oggi è puntata equina per eccellenza di Olimpia. E allora, parliamo proprio di questo illustre antesignano di Varenne. Emiliano, come lui, vandalo, straordinario trottatore che all'alba della storia d'Italia fu capace di vincere, pensate, ben 200 gare sulle 226 disputate. Tanto che per la penisola si diffuse un detto. Essere veloce come vandalo voleva dire essere di fatto un fulmine inarrivabile. Ne parliamo con un amico e collega, Mario Natucci, che per la Nomos Edizioni ha scritto il romanzo storico sportivo intitolato proprio Veloce come vandalo, il romanzo del leggendario trottatore nato per vincere. Allora Mario, buonasera e benvenuto a Olimpia. Ti chiedo subito, si può dire addirittura che con i trionfi di vandalo cominciò a nascere in Italia il concetto stesso di tifo, così come poi si è sviluppato nel secolo successivo? Vandalo fece una cosa importante. Che cosa fece? Vincendo all'estero, abbattendo i campioni stranieri, dava agli italiani quell'orgoglio del proprio paese che per altri versi non avevano. Ecco la grande opera che ha fatto Vandalo. Gli italiani, che erano in un paese la cui unità era stata fatta un po' pressappoco, molto pressappoco, parlavano 22 dialetti, il re parlava francese. Bene, gli italiani si sentivano uniti dalla vittoria nello sport. Tutti gli italiani, Mario, o quasi, vien da dire, a pensare che proprio l'italiano per eccellenza, Sua Maestà Vittorio Emanuele II, proprio con questo campione ebbe un rapporto tutt'altro che positivo, vero? Sì, Vittorio Emanuele II comprò Vandalo, lo comprò perché la fama di questo cavallo, che era già più che un puledro, era arrivata fino alle scuderie reali. La sede della capitale d'Italia era Firenze, lo fece andare a Firenze, nelle scuderie reali lo trattarono così come si trattava secondo i metodi di addestramento di allora, che erano due, il bastone e la frusta. L'errore fu fatale perché il cavallo, che aveva un caratteraccio, come tutte le persone di carattere, aveva un caratteraccio, e si ribellò e dopo un mese lo restituì all'allevamento dicendo che era indomabile e inservibile. Per capire, lontano dai regi allevamenti, Vandalo quindi si scoprì fenomeno? Questo senz'altro fu un grande cambiamento, ma non bastava, non bastava perché il cavallo aveva una enorme sensibilità verso le femmine in calore, verso le giumente, sicché il proprietario che lo comprò dopo Vittorio Emanuele, che poi era il mio bisnonno, prese una decisione che precorreva i tempi. Era una follia per l'epoca, lo fece castrare. In un paese maschilista come era l'Italia, questa operazione era impensabile, lo fece castrare. E una volta castrato, Vandalo ebbe in mente solo una cosa: correre per vincere. C'è un proverbio veneto che dice: i cavalli sono fatti per correre, ma non tutti sono fatti per correre, c'è chi è fatto per vincere, e Vandalo era fatto per vincere. l'inno di Garibaldi ci aiuta a mettere ora a fuoco un altro concetto. Vandalo fu tanto popolare da attirare l'attenzione anche di poeti e intellettuali di spicco nel Novecento. Ad esempio, se non sbaglio, Mario, il noto poeta Alfonso Gatto. Alfonso Gatto ricordava in un articolo, ricordava che a Salerno, dunque lui era di Salerno, ricordava suo nonno che si esaltava per le imprese di Vandalo, quindi la fama di questo cavallo che correva soprattutto nel centro e nord Italia, non certamente nel sud dove c'era, non era ancora sviluppato il trotto nel 1860-70 anni 80, ma si esaltava per le imprese di Vandalo, anche se la fama arrivava solo sui giornali, ma i giornali erano pieni di cronache di Vandalo. Nelle mie ricerche ne ho viste tante, anche i giornali del sud. Si esaltava Alfonso Gatto sostiene, dice, io dico che per l'unità d'Italia Vandalo merita un posto accanto a Garibaldi e a Verdi. Allora, abbiamo detto prima Vandalo, poi Varenne, tanto per citare i più noti. Emilia, quindi, che prima di essere terra di motori fu terra di straordinari trottatori. Intanto il trotto nasce come sport popolare nella pianura padana, di qua e di là dal Po. La prima corsa è stata fatta a Padova, in Prato della Valle nel 1848, ma poi Bologna, Ferrara, Modena, la Romagna diventano proprio la vera terra di elezione per il trotto, perché sulle grandi strade, sulle strade diritte, i cavalli possono correre senza problemi, e l'amore per la velocità ha fatto nascere le corse del trotto, a differenza del galoppo che è uno sport per nobili. Il trotto nasce soprattutto perché i piccoli allevatori portavano i prodotti in città e dopo col carrettino vuoto tornavano alle loro campagne, alle loro cascine, e improvvisavano delle corse col carrettino vuoto. Ecco, sport popolare. Vandalo ebbe un destino unico perché mentre lui era vivo, Benz in Germania e in Italia un certo veronese ingegner Bernardi inventarono il motore a scoppio. Vandalo fu una specie di staffetta fra l'epoca dei cavalli e quella dei cavalli vapore. Ecco, ma c'è una continuità tra Vandalo e Varenne? C'è una linea di continuità non solo perché tutti e due cominciano per va, tutti e due, ma perché tutti e due sono nati in allevamenti ferraresi, nel ferrarese, e anche questo non è un caso e conferma quello che dicevo prima, e cioè che il culto della velocità è radicatissimo in Emilia e in tutta la pianura padana, ma soprattutto in Emilia. E allora godetevi le belle pagine del romanzo storico sportivo Veloce come Vandalo, pubblicato da Nomos Edizioni e frutto della penna di Mario Natucci. Caro Mario, grazie per essere stato oggi ospite di Olimpia, la città dello sport. Grazie a te, arrivederci. Anche per l'appuntamento di oggi con Olimpia è tutto, grazie a Roberta Frisani in regia. Vi ricordo che potete scriverci alla mail olimpia@radio24.it e soprattutto riascoltarci in podcast sempre attraverso il nostro sito web radio24.it e anche attraverso l'app di Radio 24. Olimpia torna domenica prossima sempre alle 20:30. Ancora una buona serata da Dario Ricci.